Un'indagine che scava nelle parole, nei gesti, nei silenzi, nel campo del vasaio del maestro Camilleri, in una storia in cui niente è mai solo come sembra. Si addentrerà ora la riflessione di Rocco Capone. Il campo del vasaio è un breve romanzo di Andrea Camilleri che viene ambientato nella Sicilia rurale in un contesto povero e arcaico, dove la vita quotidiana è scandita dal lavoro, dalle tradizioni e da una forte religiosità popolare. Andrea Camilleri è stato uno dei più importanti scrittori italiani contemporanei. È nato a Porto Empedocle, studiò lettere e lavorò a lungo come regista teatrale e televisivo per la RAI. Lui raggiunse il grande successo negli anni 90 grazie ai romanzi polizieschi con il protagonista commissario Salvo Montalbano, che vengono ambientati nella cittadina immaginaria di Vigatà e vengono scritti in una lingua originaria che mescola l'italiano e il dialetto siciliano. Oltre ai gialli, Camilleri ha scritto romanzi storici e racconti e viaggi, diventando un autore molto amato anche all'estero. Lui è morto a Roma nel 2019, lasciando un'enorme eredità culturale e letteraria. Da una parte c'è Don Donò, un ricco proprietario terriero, rozzo, ossessionato dall'idea del possesso. Per lui tutto ha un valore solo se può essere difeso. Vive con il sospetto costante di essere derubato e considera i poveri come persone inferiori. Dall'altra parte c'è Pino, un semplice vasaio. È un uomo umile che vive dal proprio lavoro, modellando l'argilla con le mani e trasformandolo in gialle. Pino però non possiede terre né ricchezze, ma una dignità silenziosa e una profonda onestà. Il conflitto nasce quando Don Donò accusa Pino di avergli rubato delle giarre, ma in realtà l'accusa è infondata, ma Don Donò, accecato dall'avidità e dal desiderio di dominio, decide di trascinarlo in un'accusa legale lunga e assurda. Il processo diventa il cuore della narrazione, una giustizia lenta, ottusa e disumana, che non cerca la verità ma finisce per schiacciare i più deboli. Pino, pur essendo innocente, viene accusato dalla fatica, dalla povertà e dall'umiliazione fino a morire. Donò, invece, vince la causa ma perde tutto ciò che conta davvero, la pace, il rispetto e persino il senso umano della propria vittoria. I Camilleri usano una lingua semplice ma incisiva. Infatti, con ironia amara, lui denuncia le ingiustizie sociali, l'arroganza del potere e l'ipocrisia di una giustizia che favorisce i forti e ignora i deboli. Il campo rappresenta la terra, il potere e la proprietà, mentre il vasaio simboleggia il lavoro onesto, fragile ma creativo. A Don Donò pareva sempre che qualcuno gli rubasse qualcosa. Questo passo mette subito in luce il carattere di Don Donò. Non è solo un uomo ricco, ma un uomo dominato dalla paura di perdere ciò che possiede. Camilleri ci fa capire che il vero problema non è il frutto delle giarre, ma l'avidità, il sospetto continuo. Pino lavorava l'argilla in silenzio, come se parlasse con la terra. Qui Camilleri invece esalta il lavoro onesto e artigianale. Infatti il vasaio non è solo un mestiere, ma anche un rapporto profondo con la materia e con la vita. Pino non ha ricchezze, ma dignità. Quindi è l'esatto opposto di Don Donò, che possiede molto ma non c'ha nulla. Leggere questo libro mi ha dato la conferma che c'è una grossa differenza tra poveri e ricchi. Questo si manifesta purtroppo nei vari ambiti della vita, soprattutto nel lavoro quotidiano e che nella giustizia ingiusta. E infatti, noi, come vediamo nel racconto, la persona povera, per mantenere la sua reputazione, usa quel poco a disposizione, ma invano, perché il ricco spavaldo è favorito sempre dalla giustizia.